Grazie a questa presentazione dell'ultima, diciamo, fatica letteraria dei nostri due, io li chiamo amici perché sono veramente due amici, oltre che due professionisti di altissimo livello. Non ve li presento da un punto di vista delle competenze professionali, li conoscete tutti, quindi sarebbe Pino Maiolo, psicoanalista, formatore, docente universitario, Giuliana Franchini, oltre a essere cara collega in alcune esperienze fatte insieme, psicoterapeuta, esperta nei campi più complessi dell'educazione. E ancora una volta, proprio dalla loro esperienza, da quello che è il rapporto quotidiano con bambini e con famiglie, è nato questo libro. Questo libro che io mi sono letta completamente in treno, nei vari pellegrinaggi da Bolzano a Riccione, sottolineandolo, come facevo una volta, per le cose più importanti, e che offriamo adesso a voi come presentazione, come spunto di riflessione. Io sono Annalisa Gallegatti, fino all'anno scorso ero responsabile dell'Istituto di Educazione alla Salute dell'Intendenza Scolastica di Bolzano, prima sono stata insegnante per più di 20 anni al liceo scientifico, quindi un pochino di esperienza, diciamo, da un punto di vista degli argomenti e dei contenuti di questo libro ce l'ho. Anche perché all'interno di questa esperienza appunto fatta all'intendenza scolastica, insieme con Giuliana e anche con Pino poi per alcuni momenti, avevamo messo insieme proprio questo servizio di sostegno psicologico all'interno delle scuole che ha funzionato benissimo, a dimostrazione ancora una volta di come riflettere, far riflettere insegnanti e genitori sulle problematiche dei ragazzi, che coinvolgono i ragazzi, sia un'analisi, e di come comunque genitori e insegnanti abbiano bisogno di strumenti. Ecco, secondo me questo libro è un ottimo strumento anche in questo senso. Io l'ho letto non soltanto dal punto di vista dei genitori, sono donna, per cui diciamo che adesso posso applicarlo ai nipotini questo ambito, ma anche dal punto di vista degli educatori, degli insegnanti, e credo che ci siano tantissimi spunti, anche una parte pratica, soprattutto alla fine di riflessione, di schede, eccetera. E vorrei cominciare col titolo, L'arte di negoziare con i figli. Allora, arte è qualcosa che si può imparare, quindi è qualcosa che non è innato. Il mestiere di genitore, ce lo siamo sempre detto, è il mestiere più difficile del mondo, ma è un mestiere che si impara. Allora, perché un'arte e che cosa, che tipo di competenze mette in campo questo tipo di arte? Voi come pensate? Rispondete un po' uno, un po' l'altro, in base alla vostra... Come viene, perfetto. Io sì, le devo chiedere scusa, ma facciamo sempre un piccolo cappello introduttivo per... Ecco, mi tiro indietro, me lo devo dire subito. Ho lasciato parlare la professoressa. Tornate fuori. Sì, torniamo fuori, poi risettiamo tutto. Ma ecco, il nostro pubblico è sempre molto attento e flessibile, quindi... Ecco, intanto ringrazio i nostri ospiti perché hanno così scelto la Biblioteca Provinciale per presentare il loro ultimo libro. Sono persone che abbiamo già ospitato nelle nostre iniziative. La Biblioteca Provinciale Italiana, che ha una sede non presso il Centro Trevi ma in via Mendola 5, da anni organizza degli incontri con autori e autrici due volte alla settimana sui temi più vari, ecco, quindi non solo concentrandosi sulla storia locale ma aprendosi anche a tematiche utili per trovare sempre nuovi percorsi, nuove soluzioni nella vita anche quotidiana, con esempi e con così delle indicazioni anche da professori di livello universitario come i nostri ospiti questa sera, e comunque esperti veramente provati nel settore specifico. Ecco, questo è un tema molto delicato, vediamo che c'è sempre un interesse quando viene proposto un argomento di questo tipo. Nelle relazioni umane chiaramente le variabili sono tantissime, trovare delle soluzioni che possano sempre andare è difficile, ma ci si può provare, soprattutto così rivolgere e conoscere meglio i percorsi da seguire. Abbiamo anche una bibliografia legata a questi temi che vi invitiamo anche così a consultare e ad usare, soprattutto abusare della biblioteca, perché è un servizio pubblico che si mette a disposizione di tutti i cittadini quotidianamente e anche fuori dalle fasce orarie attraverso il proprio sito. Se avete bisogno di informazioni ulteriori sul nostro servizio, ci sono dei Depliant. Avremo delle iniziative fino alla fine del mese, poi ci sarà la pausa estiva dove non organizzeremo incontri settimanali, ma saremo aperti per tutte le vostre esigenze. Lasciamo delle cartoline per i prossimi appuntamenti. Vi ricordo comunque quello di giovedì, che sarà una serata con l'avvocato Lohner e Giancarlo Riccio, con Maria Pia Zanetti, che ricorderanno Umberto Eco attraverso il suo libro Papa e Satan Aleppe. E poi il 20 invece di giugno, vicini a chi si allontana, ritorniamo un po' sulla tematica dei conflitti, delle problematiche. La prossima volta appunto sarà con noi ospite Elio Cirimbelli e Francesca Mosna, sempre per quanto riguarda invece qui il tema della separazione. Ecco, il mio intervento finisce qui, vi ringrazio ancora della vostra adesione, ringrazio il nostro gentile pubblico e vi invito a tornare a trovarci in via Mendola 5. Grazie. Stasera abbiamo scombinato le cose, visto che siamo elastici lo facciamo così, anche per non mantenere sempre la stessa routine. Allora, torniamo alla domanda relativamente all'arte. Si impara quest'arte e di quali competenze anche preliminari quest'arte di negoziare con i figli? La parola negoziazione è una parola che viene un po' dall'ambito economico, commerciale, eccetera, politico anche. E come possiamo applicarla al rapporto delicatissimo genitori-figli e anche insegnanti e studenti magari? Tante sono già le domande che ci fai. Tanto grazie a te per questa presentazione e ovviamente grazie alla biblioteca che ci ospita, che ancora una volta è attenta a quello che sono i nostri lavori e grazie al pubblico che è qui questa sera. E per quanto riguarda l'arte, sì, l'arte si impara, c'è bisogno di avere un po' di talento anche, però diciamo che l'arte del negoziare è proprio data da una parte tecnica che si può apprendere, che quindi è quella che sostanzialmente noi cerchiamo di trasmettere, no? Trasmettere dei suggerimenti per saper condurre quella che è una trattativa, che non è una cosa banale, è una cosa anche complessa alle volte. E l'altra è un'arte che va recuperata, insomma, dal nostro punto di vista, va recuperato questa cosa che si faceva un tempo, che adesso non si fa più, no? Tu hai citato la negoziazione commerciale, politica, eccetera. Soprattutto quella commerciale, una volta si faceva, adesso prezzi fissi non si negozia più niente, no? E questo noi ce ne siamo accorti, e da qui è nato poi il discorso di applicare, di suggerire questo sistema, questa tecnica all'ambito educativo, andando per esempio nei paesi del Maghreb, nei paesi orientali, dove negoziare è continuo, tu negozi per qualsiasi cosa e stai lì ore e ore ad ascoltare quello che ti vuol vendere, qualche cosa, l'offerta che ti fa, tu giochi a ribasso e lui, e quando stai per andare dici no basta, adesso me ne vado, quello ti corre dietro perché ancora ti chiede di negoziare. Negoziare lì si sta un bel po', magari sorseggiando una tazza di tè. Il piacere di stare lì a trovare il punto di incontro, il punto in cui quell'oggetto che tu hai scelto e che il venditore ti vuole vendere è come dire, acquistabile. Ecco, il piacere di ascoltarsi, il piacere di confrontarsi, il piacere di provare a vedere appunto fino a dove siamo in grado di arrivare. Buonasera. sempre, forse anche dice no. Buonasera intanto, sì, e mi veniva da aggiungere anche una cosa, come diceva prima, sul fatto che non è soltanto l'incontro a metà dell'altro, no? Ma è anche un modo per conoscersi, perché se avete esperienza di una cosa che vi chiedono essere sposato, ai figli, cosa fai, dove vivi, no? Si dice, il negoziare è qualcosa che arriva dopo aver conosciuto l'altro, no? Che in qualche modo è quello che alla fine del libro cerchiamo di fare anche noi. E arrivare ad un punto che vada bene per tutte e due le parti, che vada bene, che sia efficace e che sia adatto e adeguato alle due parti, anche se le due parti non sono allo stesso livello nel momento della negoziazione tra padri, figli, tra genitori e figli, però c'è un punto di incontro che può andare bene per ognuno. È quindi un filo molto sottile, è qualcosa di molto sottile. Voi avete definito nella prima parte di questo libro in maniera molto precisa il grande cambiamento che la famiglia moderna ha appunto fatto negli ultimi anche brevi periodi di tempo, e all'interno di questo grande cambiamento, quindi voi elencate tutta una serie di tipologie di famiglie, quello che mi pare di vedere è che la figura materna forse è la figura dominante. Mi è sembrato non sempre così, o forse. Allora, quando abbiamo deciso di scrivere questo libro, abbiamo cercato anche di mettere nel libro, di quello che forse siamo riusciti a fare, degli spaccati di vita quotidiana, no? Lavorando ogni giorno con i genitori, con i bambini, più con gli adolescenti di lui. Abbiamo anche la possibilità dei racconti raccontati, quindi quando raccontano le cose noi ci facciamo i cosiddetti film, noi ci immaginiamo che cosa accade a casa di quei genitori. Per cui se avete voglia ve ne raccontiamo uno di questi spezzoni, no? Di queste immagini familiari. Da qui forse viene fuori quello che dicevi tu, la risposta. Allora, voleva essere provocatoria, no, perché... no, va bene, va benissimo, le provocazioni sono sempre. Allora, questo vi diceva Adriano, non lo sta, prego, non si sente? No, non si sente. Vabbè, mi sentite? E di casa nessuno qui? Sì, ci sono. Ah, ci sei? Sì. Ti pensavo fuori? No. Ma come, il campanello non funziona oggi? No. Ecco, non funziona? Ma mi sembrava di aver suonato. Sì, funziona, dicevo no, che non ero fuori. Ma allora ha suonato? Sì, certo. Vuol dire che l'hai sentito e non hai aperto? Fammi capire, io suono, tu senti e non apri. Vorrei tanto capire perché. Perché non ti aspettavo, perché non sei mai arrivato così presto. E poi scusa, perché tu hai le chiavi, o no? E il tuo discorso non fa una piega, come al solito sono io che sbaglio a pensare di farti una sorpresa, sbaglio a organizzarmi per tornare a casa presto, immaginare una serata tutti insieme al ristorante, sbaglio sempre, insomma. Sbaglio anche a stare qui. Ah, se vuoi puoi andartene, nessuno ti trattiene, guarda. Amore, tutto bene il lavoro? Sì. Novità? Nessuna. E ragazzi, fuori. Pronta la cena? No. E che si mangia stasera? Che si mangia? Aspetta, lo saprai, no? Vuoi una mano? No, per carità, tu continua pure a giocare con il tuo tempo. Allora, che se ne sa di Sofì? Niente. Amore, ma sei in parole stasera? Ma cosa vuoi? Un comizio? Una conferenza sul sistema solare? Cosa vuoi? Ah, vabbè, ho capito. Sei stanca o hai litigato con i tuoi collaboratori? Ti capisco, sai. Il tuo è un lavoro difficile, fare l'insegnante, la docente, la dirigente, mettere tutti d'accordo, insegnanti, genitori, risolvere ogni giorno i problemi di tutti. Tu non capisci un bel niente. Allora è il nostro anniversario, sei nervosa perché non me lo sono ricordato. Siamo in primavera e tu e io, ribadisco, tu e io ci siamo sposati in pieno inverno, ma tu dovevi, ma soprattutto io che ho sposato il mio. Ho capito, non c'è serata, dovevo subito dire il brano, andiamo tutti a cena fuori. Ma tutti chi? Ma di chi parli? Qui non c'è nessuno. Non ti sei accorto che non c'è nessuno? Ci sei o sei sconnesso? Senti, di suo figlio si sa nulla, di tuo figlio neanche l'ombra. Nicole magari sta a dormire, magari, insomma. Vuoi dire che questa casa è un albergo? Sì, è un albergo. Ah, vabbè. Suona il cellulare. Immaginate il suono prima del cellulare, questo non ce l'abbiamo, però lo usiamo. Pronto? Ah, sei tu, amore. Ciao, tesoro. Dove sei? Come? Stai arrivando? Va bene, bene, qualche minuto ancora, va bene. Piano, piano, piano, mi raccomando, tesoro. Come? Sei in pullman? Beh, insomma, ti ha l'autista di andare piano, allora. Ma comunque, tu fai presto perché noi stiamo qui e ti stiamo aspettando per cena, amore. Pronto? Philip? Mi senti? Pronto? Philip? Hai caduta la linea? Sì, è così. Ma non hai ancora capito che chiude lui la linea, visto che tuo cocco al poverino gli manca il campo, e non darei io il campo a quello. Tu te la prendi sempre con lui, in realtà a lui mancano le regole, e soprattutto manca qualcuno che gli dia, gli manca un padre, gli manca il genitore, ecco cosa gli manca. Cosa vuoi dire che è un orfanello? Dico che tu manchi come padre, ma non ti sei accorto che ormai ha 15 anni, è cresciuto, è quasi un uomo ormai. Beh sì, è vero, l'ho visto l'altro giorno quando ho andato a comprarsi un paio di scarpe nuove da ginnastica che non aveva più. Non trovava il numero e che gli andava bene, mi veniva da dirgli se voleva passare al reparto valigie. Ah, ah, che ridere. Tu non sei un padre, sei assente, sei latitante, lui avrebbe tanto bisogno di te, di uno che gli dia dei limiti, che gli metta i paletti, come dicono gli psicologi, capito? Oh, mi dai. Ma sì, dai, rispondi al cellulare, tanto è l'unica cosa che sai fare, va là, dai. Sì, pronto, Sofì? Oh, dimmi cara, stavo proprio domandando alla mamma, come non ho capito? La linea è disturbata. Ah sì, guarda un po', non sa che anche lei ha messo giù per caso? Non mi ha salutato però, vedi, lei almeno un moto di affetto lo deve avere. Ah, ecco, richiamo. Sì, pronto, dimmi. Come, Sofì? Non si sente bene? Come? Dov'è che vai? A casa di chi? E chi è questa amica? E io conosco i suoi genitori. Cosa fanno? Dove vivono? Dove abitano? Ah, me l'hai detto? Sì, dove abitano? Non mi pareva. Ah, sì, forse, vabbè. E quale film? Dopo andate a vedere? E in che cinema lo danno? Ah, vabbè, fammi sapere almeno che ora rientri, E brava, anche per oggi l'ispettore Derrick ha concluso la sua giornata. Che vuoi dire? Che non posso sapere dove va mia figlia e come va? Certo che puoi. Tanto tu la difendi sempre, la tua bambina, eh? Lei può fare tutto e tu non dici niente, ti può dire quello che vuoi, tanto tu le credi sempre, comunque. E allora cosa ti ha detto? Che dove va stasera? Visto che ti sei subito attentita, dove vai? Con chi? E con Allegra, vanno a vedere un film di un comico di Zarelli che me l'ha detto, non so neanche più come si chiamava la figura. Allegra. Vuoi dire quella sempre vestita di nero? Sì, perché? Ma quella terra è inviso che mi viene voglia di fare le condoglianze di fronte a chi la vedo perché sembra appena rientrata dal funerale. Ma il nero è sempre di moda, ma dove vivi? Ha ragione tuo figlio a dire che sei di un'altra epoca. Appartieni a un altro mondo e non neanche lo sai, neanche te ne accorgi. Ma dai, Allegra, quella sembra tutto fuorché Allegra. Non capisco cosa ci trovi in mia figlia a stare con una così. Beh, è una sua amica. Sì, ma l'hai vista bene? Poveri genitori, come hanno fatto a darle quel nome? Mica lo sapevano quando è nata, che poi da adolescente le sarebbe piaciuta la moda emo. Emo? Emo che? Emo statico? Ha perso molto sangue, vuol dire? È una vita persa, proprio. È una moda giovanile, ignorante. No. Insieme solo delle cose che ci siamo sentiti lì, non è che abbiamo inventato nulla in questo caso. C'è un po' un manuale, una summa di casi, di situazioni. Vorrei capire quanti di voi siete ritrovati in situazioni di questo, in momenti di questo, quante volte ci è venuto fuori come genitori la volontà di controllare, la volontà di sapere dove sono. Regole, appunto. Allora, negoziare, però la negoziazione ha bisogno di regole, ha bisogno di elementi condivisi, oltretutto, di regole che siano riconosciute da tutte le due parti, così come tu citavi il Maghreb e quant'altro, sappiamo bene come funziona quel tipo di negoziazione. Possiamo dire la stessa cosa allora nella negoziazione con i figli? Ci vogliono delle regole. Assolutamente. I famosi sì. No che aiutano a crescere? Assolutamente sì, le regole sono fondamentali, sia per educare, come dici tu, il no che ci aiutano a crescere, che ci danno quel famoso libro della Asha Philip, ci danno i limiti, ci danno come dire, i confini, quindi ci danno sicurezza. All'interno poi della negoziazione le regole sono fondamentali, perché bisogna sapere effettivamente che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Nel definire che su un determinato argomento andremo a fare una negoziazione con un figlio, beh, dobbiamo dire alcune cose che, tanto per citarne una di regole fondamentali che poi sta alla base di tutto il processo negoziale, è: se tu parli, io ti ascolto, e se io parlo, tu mi ascolti, regola fondamentale, che è poi alla base della negoziazione, cioè del rapporto educativo, no? E della comunicazione. E della comunicazione. Ecco, quindi questa è la prima regola. Dopodiché, saper comunicare vuol dire anche essere in grado di rispettare appunto le regole della comunicazione, che sono quelle di essere chiari, di trasmettere un concetto e vedere se appunto l'altro ha compreso quello che ho capito, quello che ho detto. Nello stesso tempo un'altra regola è quella di sapersi immedesimare nei panni dell'altro. Se la questione, ad esempio, educativa è quella tornare a casa alla sera del sabato, allora, oppure usare un computer, beh, io devo in qualche modo, come genitore, la prima regola, essere in grado anch'io di capire che cosa mi sta chiedendo, quindi essere in grado di mettermi nei panni dell'altro. Molti genitori però ci dicono: ma ai miei tempi non c'era il PC, non c'era quindi la richiesta di un oggetto, ma c'erano tante altre cose che noi andavamo a chiedere ai nostri genitori. E quindi la capacità di immedesimarsi nelle richieste dell'altro è fondamentale, ne ho dette due o tre. Volevo chiedere a Giuliana, proprio per l'esperienza con i bambini anche più piccoli che tu hai da tantissimi anni, questi stessi principi sono applicabili anche con i bambini dalla scuola dell'infanzia e quindi con i nostri piccolini proprio? Cosa significa in questo caso immedesimarsi? È pura. Esattamente, io sto cercando di prendere davanti alla gente, no? Certo, la scena è terribile, di madre normalmente sono sempre per conoscenza. Esatto. Allora, sono due le strade, no? Immedesimarsi significa entrare nel processo di empatia, no? Quindi diciamo, mettersi nei panni, a noi piace di più mettersi nelle scarpe, no? In alcune università all'estero quando ci sono degli esperimenti con le persone fanno entrare nelle stanze, no? Con tutta una serie di scarpe, e uno prova le scarpe degli altri e mentre prova la scarpa prova a pensare come chi è quella persona e come si sta in quelle scarpe, no? Da montagna, da città, col tacco, senza tacco, scosciate, eccetera. Sono così dei giochi che potremmo cominciare a fare anche noi se avessimo tempo e voglia. E il medesimarsi significa dire, per esempio, a un bambino di 4 anni che vive l'emozione più forte, che è la rabbia, capisco quello che stai provando, quella cosa lì che è devastante, spacca il mondo, no? Si chiama rabbia. E normalmente se lo si dice in maniera tranquilla, no? E si restituisce a un bambino piccolo l'emozione che sta provando, dandogli un nome, no? Una connotazione, a quel punto il bambino sente che è in sintonia, che la persona che gli sta di fronte è in sintonia con lui. normalmente la rabbia si abbassa, no? Perché soprattutto i bambini sono abituati, quando sono piccoli, a sentirsi dire no dagli adulti, per cui sentirsi dire capisco è già una roba che è così, no? Lascia interdetti. Poi si fa una pausa, io dico di 10 secondi, non di più, e si fa una bella virgola mentale e si dice ma, perché non c'è solo il capisco, ma c'è il ma, in questo momento non si può, dopo, eccetera. Quindi la negoziazione per un bambino piccolo è il sì, però non adesso, no? Questa cosa è importante, mi dispiace, ma non ora. È spostare un po', spostare e trovare una soluzione ancora una volta che vada bene per tutti e due, perché comunque il conflitto fa crescere, il conflitto è inevitabile, cioè c'erano alcune frasi appunto che mi colpivano: un bambino troppo tranquillo, un bambino che dice sempre di sì non mi piace molto, lo vedevamo anche a scuola, il ragazzino che è troppo sottomesso, che va sempre, che fa tutto a posto, è sempre, mi crea ansia, mi crea più ansia del bambino che spacca tutto e poi cosa. Quindi è corretta questa lettura. Quindi il conflitto, bisogna entrare nel conflitto, bisogna esserci dentro. È un processo di crescita, individuazione. Nel conflitto io capisco chi sono, no? E capisco non soltanto appunto chi è l'altro, ma io chi sono, no? Con le mie emozioni, il mio mondo, la mia storia, no? Devo entrare, ma devo anche, no? C'era un bellissimo slogan, so stare nel conflitto, ne so stare, no? Sì. Devo anche uscirne poi, insomma, non soltanto rimanere. E un bambino è capace di uscirne dopo, sì, dalla vostra esperienza? Un adulto che glielo insegna. Ed è questa forse la carenza, no? Io proprio adesso finisco con una consulenza con due genitori separati in malo modo, e io li ho obbligati a fare un lavoro con la loro figlia, ed era incredibile, no? Vedere come lei abbia tentato in tutto per tutto, col disegno, col gioco, con i conforti, a mettere insieme questi due che all'inizio facevano fatica a stare seduti allo stesso tavolo, no? E lì uno capisce quanto era importante per la bambina, no? Il messaggio del lei ha costruito una storia di quando noi eravamo ancora insieme, no? Cioè, il papà, la mamma e io eravamo ancora insieme. E come sarebbe stato importante per lei, no? Capire che il conflitto di quei genitori era risolvibile, no? Per dare anche una restituzione sulla possibilità che questi due genitori, papà e mamma, continuassero nel loro ruolo educativo. Che continuino a essere papà e mamma, indipendentemente dalla loro vita privata e dal loro rapporto. Ecco. Non è mio, ma sta cominciando. Quindi una serie di regole, appunto Pino ne citava alcune, fondamentalmente la comunicazione. La comunicazione che comunque è alla base, insieme all'entrare in empatia, di qualsiasi rapporto umano, di qualsiasi relazione. Riportavo un po' il discorso anche al rapporto docente-studente. Valgono le stesse cose, io vedo qui insegnanti, ex insegnanti, colleghi, eccetera. Cose che abbiamo un pochino imparato anche dalle cose. Vale lo stesso tipo di cose. Anche qui negoziamo. Assolutamente. Negoziamo anche, tutto sommato, quell'elemento che è l'elemento della valutazione? Beh, diciamo che il ruolo ci impone di fare, se siamo docenti, ci impone di dare delle valutazioni. Quindi quelle non si possono negoziare. Si può negoziare però che cosa? E come dire, anche come posso spiegarmi? Non tanto il voto, e neanche i criteri, però. Ecco, i criteri, sì, questo sì. Molti studenti, tu lo sai benissimo, fanno a volte delle giuste critiche rispetto a come noi stiamo valutando. Può essere che alle volte siano molto interessati, ma tutti sono interessati, certo, a farmi vedere i criteri, no? Anche quando andiamo a comprare qualche cosa, no? Diciamo, forse lei è troppo caro per me, no? Ecco, quindi i criteri di valutazione io credo che possono essere oggetto perlomeno di discussione. Trovare un punto di incontro non farebbe male, però certamente nell'ambito educativo, nella scuola, la negoziazione, il trovare il modo di comunicare bene all'allievo, ma questo era già Gordon che lo diceva, certo, no? Certo. Cioè, noi non abbiamo in fondo neanche inventato granché, siamo andati a prendere già delle cose che il buon Gordon ci aveva detto alcuni anni fa ed erano funzionanti proprio per gli insegnanti. Cioè. Quindi quello per esempio di dover mettersi a parlare con un allievo e cominciare a non puntare il dito, tu sbagli, questi sono i tuoi errori, è già un primo passo per cominciare un buon rapporto negoziale. Quindi tu non sei tu che non sei tu sbagliato, è la performance, esatto, che in questo, esatto, momento hai fatto, esatto, che ha delle difficoltà. Questo è fondamentale. Ecco, un'altra cosa importante, poi magari lasciamo, credo che ci siano tante domande che i nostri amici ti vorranno fare. L'ultima cosa che vi volevo, di cui volevo un attimo che parlassimo insieme, è l'esempio. Voi date grande importanza all'interno del vostro libro all'esempio, l'esempio che gli adulti dovrebbero dare, in un mondo in cui invece che invece pullula di cattivi esempi, pullula di situazioni che non sono sicuramente educative, pullula di momenti in cui pare che l'ascesa al benessere sociale si possa arrivare soltanto in determinati modi, quindi svendendo anche condizioni personali e private, appunto personalissime. Ecco, allora l'educazione e il rapporto, meglio ancora, il rapporto educativo, se non passa anche attraverso l'esempio, è carente in qualche modo, sia da un punto di vista, sia nell'ambito scolastico che tanto più nell'ambito familiare. Secondo me sì, nella maniera più assoluta. Noi educhiamo molto di più con quello che facciamo che non con quello che diciamo. Quindi è fondamentale che se io come dire, pongo una regola, questa regola sia osservata, soprattutto dall'adulto. Faccio un esempio per capirci. Oggi come oggi, molti genitori insistono con i figli, perché sanno dei pericoli, dei rischi internet, di stare attenti a come si usa il cellulare, lo si deve usare poco, eccetera. Questo può essere un'indicazione molto giusta, così come quella di stare attenti a cosa si posta su Facebook o sui social, a non mettere foto, eccetera. Però se io do questa indicazione, devo essere il primo io ad usare bene il cellulare, a non postare foto in continuazione appena mi sveglio al mattino. Torniamo a quella C di coerenza che fa parte, esatto, del decalogo delle competenze. Sì. Sì, l'altra cosa che volevo aggiungere è che quello che basta, no, è chi siamo poi alla fine, no? Io dico sempre che bisogna fare un lavoro controcorrente, no? Cioè questo mondo ha bisogno di tornare a riscoprire le cose basilari, che sono quelle semplicissime, no? Fare un discorso dritto e dritto, buongiorno, grazie. Anni fa una collega che mi piace ricordare, che non c'è più, ha scritto un libro carinissimo, Elogio della gentilezza. Ecco, io credo che dovremmo tornare a insegnare, no, a quelli che sono più giovani di noi che cos'è la gentilezza, no? Provate a fare l'esperimento, no? Andate al supermercato e lasciate passare le persone dietro e trovate delle persone che vi guardano come se voi foste impazzite, no? Perché non siamo più abituati a lasciare il parcheggio a una mamma con la mia macchina, no? Cioè, e invece secondo me abbiamo proprio gran bisogno di tornare a queste cose. Di tornare a queste cose, quindi attraverso ancora una volta l'esempio, certo, che i bambini proprio assumono, assorbono come se fossero spugne, quindi questo credo sia una lezione particolarmente importante, insieme al discorso appunto della coerenza, che secondo me come educatori, che siamo genitori o che siamo insegnanti, dovrebbe essere il principio fondamentale della nostra missione, chiamiamola così, educativa. Io lascerei un po' la palla a voi, credo che gli spunti Giuliana e Mino ce ne abbiano offerti tanti tantissimi. Tra l'altro, vi dicevo prima, il libro ha nella parte, nella seconda parte, una serie di schede, di anche di giochi in qualche modo, di situazioni in cui ci possiamo provare per vedere se effettivamente rispondiamo a questi criteri. Quindi vi invito anche magari così, per gioco, se avete tempo, a provarvi in queste cose. Ci sono poi degli spunti di approfondimento da un punto di vista teorico, perché c'è una bibliografia ovviamente di riferimento molto interessante. E poi ci sono le vostre domande. Giuliana e Piero dicevano sono appena usciti da consulenze, quindi credo che il loro lavoro e la loro produzione nasce proprio dal contatto diretto con le persone, adolescenti, bambini, genitori, eccetera. Quindi tutti noi siamo in una condizione, non siamo più bambini, ma siamo genitori, comunque educatori, eccetera. Quindi credo che possiate avere la possibilità di chiedere a Pino e Giuliana cose in più. Chi vuole essere il primo a rompere il ghiaccio? Uno si può, facciamo la conta, facciamo la piccola, la faccio un po'. Anche perché ci conosciamo da poco. Io sarei sul modello. Nello sketch che avete fatto nella caricatura, dove ci siamo riconosciuti molti, c'è una coppia che comunica fino a un certo punto. Per cui io mi chiedevo, no, al di là, no, ci sono proprio questi luoghi comuni verissimi, oggettivi e realistici, che ci sono rivista molto, no, due figli ne ho uno, però l'incomunicabilità o questa comunicazione a volte anche lui fa, mi faceva pensare a come vivono i figli questo tipo di comunicazione, ahimè, buffa, simpatica ma poco empatica, nel momento in cui poi si interagisce con loro anche rispetto a una comunicazione, a una negoziazione, eccetera. Come reagiscono? Stanno zitti, finiscono per stare zitti, per non parlare o per parlare con mugugni, no? Avete mai sentito o visto la scenetta del bambino che arriva a casa, o l'adolescente che arriva a casa, come è andata a scuola? Beh, è tutto. Allora, è chiaro che in una situazione così come quella che abbiamo cercato di mettere giù con queste battute, la comunicazione è disfunzionale e diventa disfunzionale per tutti, non è solo la coppia genitoriale. Quindi effettivamente il recuperare un modo di comunicare adeguato è fondamentale. Noi abbiamo detto, colgo l'occasione adesso per dirlo, che questo lavoro nasce proprio dal fatto che, come dicevi te, sono stati molti genitori che abbiamo piano piano aiutato a trovare una strada di comunicazione con i propri figli, perché arrivavano dicendo ma mio figlio non va, non funziona, non va bene a scuola, tutta una serie di problemi, e poi ti rendevi conto che mancava appunto quel rapporto di comunicazione efficace. E allora insegnavamo a coppie di genitori a fare questa operazione. Adesso, da qualche tempo a questa parte, proprio a Germoglio, dell'Associazione della Strada dove operiamo, stiamo facendo dei gruppi di genitori dove il centro è proprio quello di recuperare una comunicazione efficace, quindi è un laboratorio di comunicazione, non è tanto un imparare qualche cosa che si può leggere nel libro, è proprio stare lì per 5 incontri di 2 ore, quindi una decina d'ore, e fare esercizio su come si comunica tra adulti, facendo però anche l'esercizio di mettersi nella parte dell'altro, dell'ascoltare, del capire l'altro e del saper riprodurre quello che è. Questo è fondamentale. Allora, i genitori, ecco, ritorniamo al discorso, genitore, per fare genitore si impara, si dovrebbe andare a scuola, no? Vecchia. Scuola per genitori. Ecco, esatto. No? Perché? Perché è un mestiere che va acquisito. e si impara proprio cimentandosi e provandosi a fare questo, che è quello del comunicare in modo efficace. Se la comunicazione non c'è, la comunicazione all'interno della famiglia non c'è, davvero ci sono tutta una serie di difficoltà che anche i figli poi riproducono, c'è poco da fare. Il modello è quello di una comunicazione disfunzionale, quindi il risultato sarà quello. Gli abbiamo risparmiato lo spezzone delle telefonate con la nonna, sono interessanti, no? Perché questa è la comunicazione in coppia, poi c'è la comunicazione con la famiglia di origine, no? Che anche lì, no? I figli quando raccontano, ci raccontano, sono quelli di niente, no? Queste telefonate, cioè, che non se le immagino poi appunto niente. Però c'era una cosa che mi piaceva, delle cose che avete detto, scritto, soprattutto questa necessità qualche volta anche di scherzare, cioè di prendersi un po' alla leggera, cioè mettersi nei panni dell'altro, ma anche con un po' di leggerezza. D'accordo che è un mestiere difficile, però se, mi pare di capire, riusciamo un po' a compierlo questo con un po' di leggerezza, è più facile per noi ed è soprattutto più facile per i ragazzi. Quindi questa è un po' la, una sensazione, anche un altro elemento di comunicazione che forse dovremmo imparare a mettere in evidenza nei confronti del tutto. Prendersi sempre troppo sul serio è pesante per tutto, e figuriamoci per dei ragazzi. Io non ho letto il libro, ma sicuramente lo leggerò perché sono fortemente interessata al problema. Adesso però mi interessava anche qual è il limite della contrattazione. Avete detto giustamente che la valutazione non si contratta, perché io credo che la contrattazione è una cosa che avviene sul piano verbale, no? Invece io credo che sia molto efficace la comunicazione non verbale, cioè quando si danno per scontati dei valori che sono ovvi. Io ho letto per il proposito un libro, non mi ricordo l'autrice, che si intitola Ho sete per favore, non so se è ecco, dove si diceva appunto questo, che ci sono delle domande che i figli fanno a cui non c'è una risposta. La risposta è così perché è così. E io credo che occorre avere anche il coraggio di non contrattare delle cose, ma di dare per scontate. E questo, io credo che sia questa la comunicazione più efficace. Grazie. Non so se si debbano lasciare dare per scontate alcune cose. Certamente se appunto non abbiamo spiegazioni, io ho la sensazione che essere adulti vuol dire quindi essere genitori o educatori. Vuol dire anche dire in questo momento non ho una risposta da darti, magari la cerchiamo insieme, piuttosto che dire è così e basta. Perché questo forse potrebbe andare bene quando un bambino è piccolo, quando è un adolescente, l'adolescente ha bisogno di essere accompagnato a fare delle valutazioni, a capire il perché. È proprio questo che noi diciamo, la negoziazione è qualcosa di educativo che si inserisce molto bene nel momento in cui il figlio che ho davanti lo posso guardare negli occhi, cioè è cresciuto al punto tale che mi chiede di riconoscere anche lui come soggetto, per esempio. E allora in quel momento io devo sapere che l'altro ha il suo punto di vista e che forse dovremmo trovare insieme un punto di incontro senza continuare a confliggere, o comunque accettando, come si diceva prima, il conflitto senza molta preoccupazione. Poi mi piaceva però una cosa importante che lei ha detto, che c'è una grande parte della comunicazione che è comunicazione non verbale. Gli studi sulla comunicazione ci dicono che noi trasmettiamo dei contenuti a livello verbale solo il 7%, il resto è tutto comunicazione non verbale, cioè tutto quello che passa attraverso il corpo, attraverso il gesto, l'intonazione della voce, il modo con cui io mi atteggio. Ecco, Quindi effettivamente quello che dobbiamo fare nel recuperare la comunicazione, una comunicazione efficace, è stare molto attenti a come diciamo le cose, non tanto al contenuto, perché il contenuto, ripeto, passa a livello verbale, è molto limitato, ma come lo diciamo. Quindi diamo la coerenza. E torniamo alla coerenza. E torniamo alla coerenza, è logico, perché se noi diciamo una cosa verbalmente e non è supportata dal nostro corpo, da come lo diciamo, ovviamente siamo subito scoperti. E questo vale anche per i bambini piccoli, però. Sì, stavo pensando che quello che diceva lei prima, la mia impressione, però, quindi con il mio osservatorio è limitato, no? È che negli ultimi anni i genitori, più che dare regole ferree, come dire, si siano trovati a dover chiedere ai bambini la regola, il senso delle regole, ti piace più questo, che cosa vuoi mettere, dove vuoi andare a scuola, cioè delle cose che, di cui i bambini non hanno bisogno, no? I bambini hanno bisogno di sapere che ci sono le regole, magari a una certa età glielo spieghiamo, guarda, si fa letto alle 8 perché devi dormire, perché hai bisogno di dormire per essere sveglio a scuola, più che si fa letto alle 8 punto basta, no? Quindi attacchiamo un discorso in più. E ripeto, la mia impressione negli ultimi anni è che ci sia stata un po' questa inversione, no, di ruoli, per cui i bambini molto spesso decidono cose da grandi, no? Dalle cose più tremende, appunto, nella separazione, chi dice cosa, all'avvocato, no? Questa bimba che adesso ha 8 anni è ferratissima sugli avvocati, cioè sa tutto praticamente, no? Allora, ho paura che sia successo questo, no? Per cui io sono dell'idea che i bambini piccoli abbiano assolutamente bisogno di regole proporzionate all'età, man mano che si cresce, si aumenta, però meno spiegazionamente a darglielo, ecco, no? Usciamo, ti tengo per mano perché ci tengo la tua salute e voglio che tu cresca e viva bene. Per non incorrere nell'eccesso di negoziazione. Beh, certo. Perché potrebbe essere il rischio di questi genitori, appunto, di cui parlavi prima, che negoziano tutto, qualsiasi cosa. Cioè, non si può chiedere a me, è successo una mamma che si vantava di aver chiesto alla bambina di 4 anni, 3 anni e mezzo in quale asilo volesse andare. Cioè, non si può. Non si può chiedere a un mio di 4 anni tesoro, io cosa vuoi mangiare oggi, e stiamo lì a discutere su. Chiaro che un mio di 4 anni vuole mangiare patatine fritte, non dirà mai piselli e spinaci, ma mi sembra, capite? Siamo arrivati un po' all'eccesso, no? Perché altrimenti vanno dallo psicologo, non se li diamo le regole. No. A questo proposito, ricordo una mamma che è arrivata a una consulenza dicendo che non c'era più con sua figlia di 4 anni, a scuola dell'infanzia, perché ogni mattina era un problema vestirsi, cosa comune, però questa donna citava il fatto che il giorno prima il bambino voleva andare a scuola con i pantaloncini corti, eravamo in gennaio, e la madre ha fatto fatica, l'ha tenuto a casa. Capite? Questo però è la realtà, non è un'invenzione che il genitore chieda, debiti al bambino di fare delle scelte quando il bambino veramente non è in grado. Allora, la negoziazione, quando noi diciamo la negoziazione, la dobbiamo fare ovviamente nel momento in cui l'altro è in grado di scegliere, no? E la stessa. Allora torniamo in quella definizione di tipologia di genitori che voi anticipate nella prima parte del libro, dove ci sono alcuni genitori molto particolari, tra cui appunto quello che è assolutamente capace di prendere una decisione e la delega completamente al figlio, con tutti i rischi che abbiamo visto che questo può portare. Si abbia fatto un elenco di che genitore sei, no? Sì. Un questionario, però se non vi diciamo tutto non comprate più. No, no, ci siamo divertiti, no, a vedere un po' la tipologia di genitori, no? Un po' come per esempio rispetto all'educazione, abbiamo trovato le 10 C che vanno d'accordo con il CER, no? Che non è soltanto comunicazione, ma è condivisione, compartecipazione, no? Poi diciamo sempre qua, coerenza. Sono 10, non è importante. Ma se ne possono aggiungere tante altre. Non ce ne sono neanche 10. fai 100, no? Bisogna fare 140, non 100, no? 140. Altre. Io sono sempre in fase di negoziazione, continuo, ne faccio più. Santa, credo, Santa. No, se lo so, se si può dire. Se sta crescendo l'aureola, poi. Altre. Uno spaccato anche qui. Ma naturalmente, ma io credo, ecco, una cosa che vi volevo chiedere, ma noi ne abbiamo parlato tante volte, quanto proprio il vostro rapporto di coppia, voi lo citate nel libro, entrando in una classe qualcuno vi ha chiesto, ha scoperto che siete una coppia e quindi è stato quasi più, i ragazzi sono stati quasi più a sentire le vostre esperienze di coppia piuttosto che cioè, attraverso quello poi è passato il messaggio. Questa è una cosa che io racconto sempre, è una cosa che mi ha emozionato molto anni fa, prima della stampa, che andava a scritto un libro sui racconti in adolescenza, amore all'adolescenza, e siamo andati, presenti, siamo invitati in questo liceo di Lecce, 800 ragazzi, no? Allora, sul palco che leggeva alcuni brani, io dietro al palco, perché tanto, insomma, io facevo l'accompagnatrice, quindi ero dietro al palcoscenico. A un certo punto lo vedo un ragazzino piccoletto, le orecchie a sventola, gli alza la mano e comincia a chiedergli, prof. Ma tu ce l'hai una donna? E lui dice, sì. Ah, e sei sposato? E lui dice sì, allora erano 27-28 anni, adesso non ci sono molti di più. E allora lui dice sì, sono sposato. Ah, da quanti anni? E allora lui risponde 27-28. La risposta, figo! È partito un applauso e vi giuro, non abbiamo mai ricevuto un applauso così nella nostra vita. E io dicevo, ma se questi applaudono perché due stanno insieme da 27 anni, adesso anche ne facciamo 40 l'anno prossimo, non so se vogliono farci. Vabbè, anche io la farei. Hanno bisogno di queste cose, no? Cioè che non è rimasto niente perché i racconti che ha detto lui, probabilmente lui però è rimasta. È che quello lì era sposato a 27 anni perché un giorno. No, l'esempio probabilmente era diverso. Fatica a stare insieme 40 anni. Fatica a stare insieme 40 anni. Madonna, io dico che dovrebbero rendimento tasse solo per questo, no? La riduzione sulle tasse sarebbe un ottimo incentivo a resistere. Altro che negoziazione, comunicazione e quant'altro. Cioè oggi è la resistenza, no? Quella resistenza. Resilienza. O resilienza. Sai che è un'altra non è il PC, ma questa volta è con la verde, no. Però va bene. Tenere botta. Tenere botta. Anche quando tenere botta è faticoso, perché sì. Se negoziare con un figlio è faticoso, io penso alle famiglie che non sono moltissime, ma comunque ce ne sono, e ultimamente ce ne sono abbastanza che hanno due o tre figli in gradazione diversa, quindi momenti di negoziazione a livelli diversi deve essere effettivamente molto molto pesante, quindi ci vuole anche una grossa carica sotto questo aspetto. E soprattutto per il fatto che quando si negozia anche con i bambini molto piccoli, i bambini sanno prenderti per esaminamento. Assolutamente sì, sì. Questo è qualcosa di passato sulla sua pelle. Anche gli adolescenti. Ma allora da adolescenti in qualche modo lo accettiamo perché anche una capacità dialettica più formata. E quando questo avviene da un bambino che è più complicato accettarlo. E anche questo credo che sia una cosa che tra nonni e genitori condividiamo in parecchi questo tipo di situazione. Altre così riflessioni? Perché non sono stata capace di star ferma. Questo sembrava un mio identikit, no? Questa necessità di negoziare con più interlocutori, perché ho tre figlie, due adolescenti e una piccolina. E mi domando sempre quanto incida il fattore tempo in questa situazione qui, perché mi rendo conto in prima persona che la giornata è lunga, che ci sono tante altre cose, a volte arrivo a casa infastidita del fatto che mi sono portata dietro i problemi di altri e poi a casa mia non ho le energie sufficienti per affrontare quelli veri a cui ci tengo di più, insomma, ecco, perché la problematica magari di una persona con cui lavoro posso prendermela in carico, prenderla seriamente, ma non posso portarla a casa. Invece a volte purtroppo si trascina il rischio quasi di sottrarre alla mia famiglia invece degli interventi o delle crescite, no? Quindi questo è il primo problema, almeno personalmente mi ritrovo spesso, anche se mi sono educata in questi anni, ho fatto un po' mente locale quando mi ci trovavo. Però dico, vedo che è una cosa che mi manca, tempo, un'energia per calibrare bene, sincronizzarmi con le varie situazioni. E un'altra cosa, volevo chiedere anche questa gentilezza, perché si è persa? È una questione sociale? È una questione dell'evoluzione della nostra cultura o evoluzione? O è anche questa esaltazione che ho visto, ho trovato anche nei libri o anche in alcuni corsi, dell'aggressività che viene vista assolutamente come qualcosa di positivo? Io personalmente, ma questa è la mia opinione, non la vivo molto positiva l'aggressività quando la percepisco, però spesso è passato il messaggio che essere aggressivo vuol dire essere vincenti, quindi vuol dire che uno ti ascolta di più, quindi automaticamente hai le porte aperte, insomma. No, per andare avanti dove vuoi, e l'ho ritrovato anche a volte nel mio percorso educativo con le mie figlie, perché chiaramente anche loro sono in un contesto con altri bambini, anche elementari, le medie, come venivano a casa, magari si lagnavano di qualche, non dico sopruso, ma insomma qualche piccolo screzzo così con i loro coetanei, e era difficile. Devo sapere dire, sì, adesso provo a vedere, insomma, vediamo qual è il vero problema, cercare di andare incontro, di fare la pace, insomma, cose molto semplici. Però mi domandavo sempre se, ah, questa era la mia linea perché non potevo violare i miei convincimenti, però dall'altra ci siamo ben posti anche come marito a volte delle domande, perché intorno non è così. Non è così. Non sempre, ma poi chiaramente ci sono persone, una famiglia con cui hai molti elementi in comune, un modo di vedere le cose simile, un'educazione. Però il messaggio vincente in questi ultimi anni, ecco, abbiamo notato in alcune situazioni, anche nel contesto scolastico a volte, che è quello di spingere avanti. Allora, questa non so se è una domanda così, però era una constatazione. E quello che mi domando se a volte, non so se per consolarmi, se è anche per questione di tempo che non riusciamo, perché la negoziazione è... Il fattore tempo nella negoziazione è fondamentale, non c'è dubbio. È per questo che anche noi parliamo non tanto di uno strumento che serve per risolvere i problemi, i conflitti, ma proprio di uno strumento educativo, no? Perché negoziare ti impone di stare lì. Perdere tempo, come diremmo, no? Perderci una mezza giornata per arrivare a, per arrivare a una posizione condivisa. Che sia una posizione condivisa, ma effettivamente condivisa, perché adesso la parola, io ce l'ho un po' con questa parola, la usiamo tutti i giorni, a ogni verso spinto, condividere vuol dire fare un gesto di questo genere, mettere un click, condividi. No? E invece in realtà condivisione è il frutto di un processo abbastanza lungo, che è quello di negoziare, ad esempio, no? Allora si arriva a un punto condiviso dopo aver fatto tutta una serie di cose, e per fare questo non è che ci possiamo dire ma in 10 minuti ce la caviamo, no? Allora noi lo diciamo, bisogna proprio prendersi il tempo, definire quando non possiamo farlo prima di andare al lavoro o tra una cosa e l'altra, no? Dobbiamo prenderci un tempo, c'è sabato pomeriggio, prendiamoci sabato pomeriggio un'ora e vediamo fino a che punto dobbiamo andare. Qui le esperienze di negoziazione diplomatica, commerciale, ci insegnano proprio che devi stare lì un certo tempo e arrivi fino a un certo punto, poi non puoi più andare avanti perché sei ormai stanco, perché non riesci più a vedere, e dire vabbè, rimandiamo, siamo arrivati qui, rimandiamo. Quindi è il tempo. Allora, è educativo spendere questo tempo perché ci si mette uno di fronte all'altro, ecco, poi diciamo, non possiamo negoziare in due con uno, deve essere una pari a questione, no? Due genitori con un figlio che è un tribunale, va, esatto, no? E allora lì dobbiamo, casomai lo facciamo a turno, una volta fa uno, una volta fa l'altro, però bisogna prendersi tutto. Sì, e mi viene da dire che anche il messaggio è il tempo che io ti do è tempo prezioso, no? Il messaggio che passa, al di là dei miei figli e riuscire ad arrivare a quello che voglio, è il fatto di vedere un genitore che si prende il tempo sabato pomeriggio per sedermi, sedersi insieme con me a un tavolo, e diciamo preferibilmente non in camera da letto, non in camera del ragazzo, in uno spazio neutro, tra virgolette, e si parla, no? Ma c'è una, anche qui, una, mettersi d'accordo su un giorno, sull'ora, e parliamo di questa cosa, no? Quindi un grande messaggio. E dare importanza, certo. Solo aggiungere che a volte facciamo confusione tra conflitto, aggressività e violenza. Sono tre cose che sono un po' diverse, però, no? Allora, magari la lasciamo un attimo lì, questa cosa, perché è comunque un momento di grossa riflessione, forse aprirebbe anche uno spazio più ampio rispetto a quello di un tempo più ampio, e non credo che possiamo chiuderla in poche parole. Volevo sapere se appunto qualcun altro vuole condividere le riflessioni che ha fatto fino a questo momento. E allora vi diamo i compiti per le vacanze, che visto che adesso usano i sindaci, adesso decidono che cosa se vuole, la signora voleva fare una casa. Ma io mi prego sul valore del conflitto. Quando? Se se ne esce. Ah, se se ne esce. Se se ne esce. Certo, il conflitto ha una grande funzione, che è quella appunto di incontrarci, no? Quando noi parliamo di scontro dobbiamo ricordarci anche dall'etimo che la parola vuol dire incontro prima di tutto, quindi il conflitto è un momento di incontro che bisogna saper gestire, che bisogna non spaventarsi per quello che può essere anche un momento duro, forte, di messa a confronto. Bisogna, ecco, come diceva prima Viviana, saper stare dentro il conflitto. Bisogna imparare però questo, ecco perché allora ancora una volta torna fuori il discorso che è un apprendere da una parte determinate tecniche, così come appunto all'inizio Annalisa suggeriva, bisogna apprendere l'arte di usare determinati strumenti che sono quelli della comunicazione, quello della persuasione, perché anche qui o del compromesso, no? Sono due parole, pensate, compromesso e persuasione, che abbiamo bandito dal nostro linguaggio, attribuendo a queste due parole valori negativi. Il compromesso ci sembra che non posso mica scendere a compromessi, ma come? Il compromesso fa parte di tutta la relazione, tutte le relazioni umane, no? E la persuasione, la capacità di persuadere l'altro, intanto vuol dire prima di tutto che a quello che io dico ci credo. E nello stesso tempo so anche trovare lo strumento per farti capire che le mie idee, il mio. Ecco, nel conflitto ci sta tutto questo, no? Quindi devo effettivamente attrezzarmi per gestire il conflitto. Se sono un genitore, se sono un educatore, se mi posiziono nella relazione umana e accetto appunto di mettermi in confronto con l'altro. Ecco, c'è ancora nella parola compromesso, c'è comunque il cum, è lo stare comunque insieme. E forse qualche volta, come dicevi tu, dobbiamo proprio abbandonare certe cose che ci vengono anche da un passato non tanto lontano, certe indicazioni, certi pregiudizi sulle parole, ma arrivare al loro significato essenziale, a quello che è stato come comprensione, compromesso, cioè la matrice etimologica è sempre la stessa. E fanno tutte parte appunto di questa arte, di questo rapporto, della relazione, comunque, dell'arte della relazione. anche andare. Se non ci sono altre domande, noi vi ringraziamo, prima di tutto ringraziamo Giuliana e Pino per queste il libro e per le cose che abbiamo potuto discutere insieme e di cui abbiamo approfondito alcuni aspetti, non tutto, perché come diceva giustamente Giuliana, se no il libro rimane. I compiti per le vacanze, dicevo prima, sono proprio quelli di leggere il libro, anche il sindaco l'ha detto che leggere si può. Quindi, rimaniamo dentro questo decalogo delle cose. E vi ringraziamo di essere stati qui fino a quest'ora, di aver condiviso con noi appunto queste riflessioni da educatori, da genitori, da nonni, e rimandiamo ai prossimi incontri, ai prossimi libri, così di Giulia e Pino da leggere insieme. Grazie e buona serata.